Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. In gabbia, prigionieri come animali, maltrattati e lasciati lì per ore a espiare una colpa che non hanno. Ragazzi autistici tra gli 8 e i 20 anni, così li trattavano gli educatori. Ecco la stanza degli orrori, filmata dai carabinieri del centro per disabili Alice nell'Ascolano. Al minimo sgarro li chiudevano nella stanza di contenzione, come questo ragazzo abbandonato completamente nudo, o come questa ragazza. Un triste copione che si ripeteva da mesi. La porta che si apre, le sevizie che cominciano. Ecco un ragazzo, viene portato a forza nella stanza. Grida, cerca di fuggire, si aggrappa alla maniglia, nessuna pietà. E poi un altro, piange, gli tolgono le scarpe, le buttano fuori dalla stanza. Cerca di fuggire anche lui, ma rimane prigioniero, si butta a terra. E ancora un altro ragazzo pone un po' di resistenza, poi si arrende. Violenza anche nel soggiorno. Ecco un'altra telecamera, un ragazzo si alza senza permesso. Questo è l'audio di una notizia che è circolata ieri in molti telegiornali, continua a circolare oggi nei telegiornali, che vedo molto poco presente nei giornali cartacei. È la storia, la storiaccia, l'ennesima storiaccia, vorrei dire, di un centro abilitativo per giovani disabili, in questo caso era la casa di Alice di Grottamare, gestito dal comune. Sono stati arrestati 5 operatori, messi in manette. Perché? Perché i carabinieri, per un'inchiesta è stata aperta da un magistrato, hanno registrato quello che accadeva in questa struttura e ho visto le stesse immagini che ho visto un anno e mezzo fa delle insegnanti aguzzine di Vicenza, di cui abbiamo spesso parlato, a cui era affidato un ragazzo autistico. Anche questa volta gli operatori avevano per le mani dei ragazzi autistici. Particolarmente truce quello che si vede, è stato già descritto dalla collega del TG4, è angoscioso e brutto, delle ragazze anche se grandi di stazza fisica, ma totalmente indifesi, presi, sbattuti, buttati per terra, spogliati. Vedere un ragazzo, una ragazza nudo steso per terra in una stanza di contenimento, che è un luogo fisico che non dovrebbe più esistere, perlomeno dal 78, perlomeno da quando c'è una legge che ha abolito quelle strutture, si chiamano manicomi. Ma chissà perché, una struttura gestita dal comune, con una cooperativa sovvenzionata dal comune, con operatori apparentemente specializzati, probabilmente sotto l'attenzione di un centro di neuropsichiatria, avevano ancora degli strumenti medievali per gestire la disabilità psichica. Perché ho sottolineato il fatto che ne parlino i telegiornali e meno i quotidiani, anche se la notizia nei siti web di molti quotidiani è uscita ieri subito? Perché? Perché una cosa è trasmettere le immagini che hanno un forte impatto emotivo, una cosa è parlare di una categoria di umanità che ancora è misconosciuta. Le battaglie più tenaci che ho sostenuto contro i miei colleghi in queste ultime 2-3 settimane è proprio per il diritto dell'uso del termine autistico in maniera propria. Dare dell'autistico a una persona come dargli dello scemo, dargli dell'isolato, dargli dell'incapace di avere rapporti è fortemente offensivo, perché siamo in un paese in cui l'autismo non esiste, gli autistici sono ancora dei fantasmi, e lo dimostra l'episodio di oggi, su cui vorrei parlare, su cui inviterei le persone che mi hanno ascoltato, che mi seguono, che sono particolarmente sensibili a questo problema perché lo conoscono di persona, di ascoltare, perché daremo quegli elementi che mancano a quella che è stata l'informazione generale, che si ferma su l'aspetto emotivamente forte e necessario di ragazzi maltrattati da persone a cui le famiglie l'avevano affidati. Carlo Anao, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Anao, ospite ricorrente di questa trasmissione, docente di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, membro del comitato scientifico dell'ANCSA, che è l'associazione nazionale genitori soggetti autistici. A Carlo Anao riconosco la competenza di essere la persona che in Italia ha maggiori elementi, sia storici sia di aggiornamento, su quello che è l'autismo. Carlo Anao, innanzitutto, all'osservazione di queste immagini e di questo episodio, quali sono le cose più madornali che non dovevano accadere? Ma anzitutto parlare di un gruppetto di persone relativamente limitato, però che va dagli 8 ai 20 anni, già questa è una prima cosa che sconvolge un po'. In genere non si mettono assieme persone, bambini con giovani adulti. questo come prima cosa. E l'altra cosa che sconvolge ovviamente è la videata, è praticamente il modo con cui li hanno trattati. La missione stessa da parte del dirigente della struttura, della cooperativa, che erano dati anche degli, non so, capito bene, schiaffoni, insomma, cose del genere, insomma, o scoppellotti, ecco, una cosa. Beh, oddio, le immagini sono chiaramente un assattonato, sbattuto, ma soprattutto sì, sì, il disprezzo radicale per quell'essere umano che sì, colpisce. Sì. Allora, io faccio rilevare, come al solito, purtroppo sempre lo stesso refrain: manca la specializzazione. Perché trattare queste persone, i soggetti con autismo, non è facile. E bisogna imparare da chissà. Ora, per esempio, quando queste persone hanno dei comportamenti cosiddetti problema, quando qualche volta diventano aggressivi, autoaggressivi, eterogressivi, la prima cosa da fare è conoscere il soggetto per evitare che vada fino a quel livello. Ci sono di solito dei segni premonitori, e se queste persone vengono seguite bene, si riesce ad evitare che esplodano. Questa è la prima cosa, quindi prevenire meglio che... Seconda cosa, quando succede che queste persone hanno dei comportamenti aggressivi verso se stessi e verso gli altri, allora effettivamente occorre essere specialisti. Ora, io so che in Inghilterra ci sono dei corsi appositi con dei patentini che concedono soltanto ad alcuni di questi operatori la possibilità, perché hanno la capacità, di contenere queste persone senza fare loro del male e senza farsi del male, perché anche l'operatore va salvaguardato. Ecco, Carlo Nau, solo velocemente, risulta che in Italia ci siano delle necessarie attenzioni per gli operatori che si occupano di autistici? Esiste una necessaria qualificazione? Ne abbiamo già parlato parlando di insegnanti di sostegno, chiedendo più volte che ci vorrebbe un regolamento che imponesse l'insegnante di sostegno specifica per un soggetto del genere, che è un soggetto con delle difficoltà di trattamento. Ma in realtà le cooperative che si occupano di autistici passano attraverso una sorta di esame di attitudine? Purtroppo no. Diciamo la verità che il Ministero dell'Istruzione, soprattutto per i propri insegnanti, ma aprendo questi corsi spesso anche agli educatori delle cooperative, l'anno scorso, 2013, aveva stanziato qualche soldo per fare 45 master e corsi di perfezionamento, di cui 15 sull'autismo. Le università si sono prese questo compito e con questi soldini pochi che sono arrivati dal Ministero si è fatto in tutta Italia 45 master, di cui 15 proprio specifici sull'autismo. Però, guardate bene, siamo sempre alle solite. Per fare questo tipo di lavoro, che è il contenimento, in Inghilterra non bastano le specializzazioni che pure loro hanno sul tema dell'autismo. Ci vuole una specie di patente, Che scadono i tre anni. Perché bisogna anche aggiornare il fatto che seguire che sia aggiornato l'operatore. Davide Farone, buongiorno. Davide Farone, è caduta la linea, lo stiamo recuperando. Intanto sentiamo allora l'ascoltatore Alberto. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scuso perché non ho moltissima voce. Volevo premettere che ci sono tantissime persone, la maggior parte, che lavorano con passione, con impegno e veramente con merito, dedicandosi al problema dell'autismo e degli autistici. Però io devo fare un'osservazione. Io lavoro per una cooperativa, ho lavorato in diverse scuole. Le cooperative ti danno in pasto senza considerare la formazione, me la sono fatta da solo a mie spese e ne sono orgoglioso perché ho ottenuto anche degli ottimi risultati. Però io ho subito un mobbing pesantissimo che tra l'altro ha avuto come epilogo un'insinuazione di pedofilia nei miei confronti nel momento in cui io ho fatto presente alla cooperativa e alla scuola che il capo del dipartimento, i miei colleghi prendevano a calcio e schiaffi ragazzini autistici anche con lievissimi disagi ma molto tranquilli. Il risultato è che per gli interessi della cooperativa, per coprire tutto, perché si sarebbe perso l'appalto, c'era la paura di finire sui giornali, il risultato è stato che io sono stato allontanato da quella scuola. I miei colleghi sono rimasti ancora per la fine dell'anno, poi il gruppo è stato smembrato. però di fatto è stato un Alberto, lei sta descrivendo una situazione che ogni genitore d'autistico in maggiore o minore parte conosce benissimo. Sa benissimo che i propri figli, che sono dei soggetti molto particolari e per cui occorre, ripeto, avere grandi competenze nella gestione, vengono affidate a persone che normalmente, nella migliore delle ipotesi, a me è capitato di trovare mio figlio abbandonato in un cortile con l'operatore che fumava da una parte, nella migliore delle ipotesi, o se no cose come accadono per lei. Abbiamo recuperato Davide Farone. Buongiorno Davide Farone. Buongiorno a voi. Allora, Davide Farone ha un ruolo pubblico e un ruolo personale, per cui è qua, è responsabile nazionale del welfare e della scuola per il Partito Democratico, ma è anche mio collega in quanto è genitore di una ragazza autistica. So che oggi andrà lei, Farone, a visitare questa scuola, questo centro, a capire cos'è successo. Sì, andremo a visitare questo centro, lo faremo senza voglia giustizialista, ma sicuramente con determinazione, perché dalle immagini e dalle notizie che stanno emergendo sulla situazione, diciamo, quello che è accaduto è gravissimo, e per chi è papà di una bimba, di un bimbo autistico, vedere utilizzata come terapia quella di chiudere dentro una stanza un bambino che soffre questa patologia, già di per sé stesso fa comprendere come non vi fosse nessuna comprensione di come andava trattato e come va trattata questo tipo di patologia. Quindi la nostra determinazione sarà nel contrastare queste vergogne ovunque esse si producano. Noi siamo stati a Picarolo qualche giorno fa perché c'erano stati altri episodi di trattamento, idem qui, e non c'è neanche la possibilità di separare l'attività degli operatori dalle attività delle cooperative o delle associazioni che svolgono quel servizio. Che io leggo di dichiarazioni di queste dei responsabili di queste cooperative, di queste associazioni, come se fossero marziani che dicono: ah, ma noi non ce l'aspettavamo, perché la selezione di quel personale lo fanno loro, e non ci sarà neanche nessuna pietà nei confronti delle amministrazioni comunali, di destra o di sinistra, non mi interessa se sono un esponente politico di un partito politico, se ci sono amministrazioni che finanziano strutture che non funzionano senza i controlli dovuti, perché questa struttura dove andremo oggi pomeriggio, ma anche quella di Ficarolo, sono strutture accreditate dalla regione, accreditate dagli enti locali, che se non svolgono il controllo, gli danno soldi per maltrattare i nostri figli, non meritano assolutamente queste amministrazioni sostenute da nessun governo e da nessuna forza politica. Allora, Davide Farone, ci dà 30 secondi di tempo, diamo le informazioni del traffico, poi vorrei farle una domanda su un discorso propositivo. Queste situazioni le abbiamo conosciute, le stiamo conoscendo per quanto posso, essendone personalmente coinvolto, ma anche perché lo sento come dovere e le segnalo. Però forse è il momento di cominciare a dire quali sono i passi avanti da fare perché non accadano più. Melog, cronache meridiane. Stamattina torniamo su un problema che abbiamo spesso trattato, è quello della ignoranza abissale, dell'incultura, cioè nel nostro paese, nei confronti del disagio psichico in generale, ma nello specifico dell'autismo, che ricordo che è la prima causa di handicap nel nostro paese. Per quanto tempo ancora ne dovremo raccontare storiacce di operatori non qualificati che si occupano dei nostri ragazzi? Per quanto tempo ancora dovremo spiegare ai nostri acuti colleghi che usare con leggerezza il termine autistico significa ignorare quello che c'è dietro a questo problema? Ne sto parlando con Davide Farone, che è un esponente politico, è un parlamentare, ma conosce il problema di persona perché è padre di una ragazza autistica. Andrà a vedere, a capire bene cosa è accaduto nella struttura di cui stiamo parlando, in cui è accaduto l'ennesimo caso. Ma non sarebbe forse, Davide Farone, l'occasione questa per ritornare in campo col fatto che in Italia occorre una legge precisa, specifica, occorre ricreare delle competenze, occorre creare cultura e sensibilità su questo problema, non perché sia solo il nostro problema personale, perché è un problema grosso, 600.000 famiglie non sono poi poche. Le 600.000 sono solo quelle censite, e io credo che il fenomeno possa essere addirittura anche più vasto. Io credo che bisogna intervenire sicuramente da un punto di vista legislativo, bisogna intervenire sulla formazione degli insegnanti di sostegno, stiamo lavorando in questa direzione, bisogna lavorare moltissimo sulla sensibilizzazione, perché io sentivo la premessa a questo inizio di trasmissione, quando si diceva la TV ha dato molto spazio a questa notizia. Perché sono immagini che fanno ascolto, è chiaro. Mentre i giornali no, e infatti il tema è quello lì, i giornali non hanno le immagini da far vedere, quindi non entra nella notizia dei giornali, entra nella notizia della TV perché ci sono quelle immagini e fanno audience. Fin quando sarà Faone, ancora sul trattare il tema, è chiaro che siamo sul foglio di ieri. Un collega ancora mi fa le pulci dicendo: sullo Zingarelli c'è questo che dice autistico, perché tu ti arrabbi se uso autistico in maniera impropria? Siamo ancora a questo livello con i nostri colleghi, questo è il problema. E infatti il tema è proprio, noi possiamo fare le più belle leggi del mondo, ma se non si crea questo livello di sensibilità e di conoscenza, anche perché poi queste persone, questi ragazzi, coloro che soffrono questa patologia, sono persone che devono stare nella società, e la cultura che noi abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni è proprio quella dell'integrazione, non di chiudere in una stanza come è accaduto a Grottammare. Per cui nell'integrazione o c'è la volontà da parte delle persone di questa integrazione, dai bambini in classe, che vanno sensibilizzate, i genitori che devono spingere i bambini a invitare questi ragazzi alle loro feste e non isolarli costantemente, al mondo del lavoro, quelle sono persone che devono essere anche integrate, gli deve essere data la possibilità di lavorare. Tutto questo non lo si può fare soltanto con una legge, è un processo, ma noi dobbiamo avviare questo processo con durezza e con determinazione. Sentiamo Giuseppe ascoltatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io ho telefonato proprio, non ho potuto farne a meno veramente, perché sono ormai stufo di vedere in televisione queste riprese scabrose, inquietanti, sconcertanti, non voglio dire altro, di queste persone che maltrattano, o i ragazzini in questo caso come i vostri. Ma anche gli anziani, anche chiunque anziani, certo. Oppure quelli che maltrattano le donne, che fanno queste cose qua. Io dico, ancora noi siamo un paese troppo permissivo. Io, se fosse mio figlio o mia figlia o mia madre, io prima lo manderei all'ospedale e poi dopo lo denuncerei. Sì, creerebbe ancora più problemi, problemi in generale alla società, perché poi dovrebbe anche lei a sua volta essere processato per questo. L'abbiamo visto benissimo che queste cose non funzionano, i processi, le cose, ti manda a casa agli arresti domiciliari, ma facciamo ridere, bisogna dare un esempio. Sì, io la vedo un po' diversamente a lei, io penso che profondamente il vero problema sia l'ignoranza delle persone che selezionano, l'ignoranza dei dirigenti, l'ignoranza anche della politica, l'ignoranza dei soldi pubblici che comunque girano e devono girare, e non girano nelle maniere giuste, con le persone giuste. Io penso che non è che occorra spendere più soldi, lo so, lo conosco bene il problema, occorre spenderli con le persone giuste, le persone giuste devono studiare, devono formarsi, e questo richiede problema, richiede impegno. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Volevo puntualizzare appunto il discorso che lei faceva giustamente della mancata informazione sul problema dell'handicap, della disabilità, della diversità, che anch'io sono purtroppo parente di un ragazzino che ha dei problemi, e sono un po' indignato sentendo che oggi la notizia più importante del giorno era quella che la Juventus ha cambiato allenatore, e la notizia drammatica di cui lei sta parlando è rimasta nel dimenticatoio. Beh, gli stiamo dando un po' spazio, dedico tutta la mia rubrica a questo. Lei sì, ma ognuno fa la sua parte del mestiere. Io ci provo perché conosco il problema meglio degli altri, lo conosco e mi sembra sciocco e vigliacco far finta che il problema non ci sia. Allora, professor Carlo Anao, velocemente, se in due battute mi riesce a dire le tre cose che andrebbero fatte, consigliandole anche all'onorevole Faraone, che è uomo vicino al governo in questo momento, alla sensibilità giusta, perché queste cose non accadano più. Giustamente, è inutile continuare a fare l'elenco ogni volta, non possiamo mettere le telecamere in tutti gli istituti dove si trattino ragazzi o anziani o persone deboli, ci sarà qualcosa da fare. Beh, a dire la verità però ci si può mettere le telecamere non da parte dei carabinieri ma da parte dei dirigenti della struttura. Questa è una cosa secondo lei andrebbe consigliata, certo, auspicata? Certo, questo viene fatto già per esempio a Melito Porto Salvo da una struttura che è nata all'interno dell'ANSA, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, per opera di uno dei genitori che è stato presidente dell'ANSA, che è Marino. Quindi lì ci sono le telecamere che e registrano quello che succede, prima cosa. Seconda cosa, la possibilità per i genitori di entrare in ogni momento senza bisogno di preavvertire. In questa struttura non si poteva, dovevano avvertire prima i genitori. Non lo so, non lo so. Però il fatto che sia successo questo, credo che sia già di per sé, purtroppo, la prova che non si poteva. Ecco. La terza cosa, occorre una legge apposita per queste persone che non sono come gli altri, non sono una patologia, sono persone che hanno delle esigenze particolari e queste esigenze particolari esigono delle risposte particolari. E questo, c'è un disegno di legge in Senato che dovrebbe passare e che darebbe veramente forza alle rivendicazioni dei diritti di queste persone che ne hanno assolutamente bisogno, perché se non ci sono gli altri che li difendono, questi da soli, proprio qui è il dramma, non sono in grado di difendersi, non sono neanche in grado di raccontare quello che è successo loro. Quindi sono proprio le persone più indifese del mondo. Quindi diciamo, auspicarsi che il disegno di legge, che immagino che lei conosca nei punti essenziali, possa in qualche maniera intanto cominciare a creare le basi, le fondamenta per una cultura dell'autismo. Sentiamo un attimo velocemente Elena, poi voglio far concludere a Farone. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io appunto sono Elena e chiamo dalla provincia di Bergamo e faccio l'educatrice. Lavoro in una cooperativa sociale e da un po' di anni mi occupo proprio di autismo. Come si è formata? Posso farle una domanda? Sì, io ho fatto l'università, ho fatto la laurea triennale come educatrice, ho fatto vari tirocini perché fortunatamente nel mio percorso era richiesta più la parte di formazione pratica, però vabbè, non è detto che ci sia in tutte le facoltà, a volte ci sono pochissime ore, quindi poi ti ritrovi nel mondo del lavoro e devi un po', insomma... E lei come vede questa la situazione attuale riguardo alle notizie di cronaca sconvolgenti e quello, sì, che cerchiamo noi di costruire? Guardi, io tra l'altro prima parlavate di immagini, io vabbè non ho la televisione a casa, quindi non ho visto nulla, però vabbè ho sentito la notizia, ero abbastanza colpita. Secondo me sarebbe fondamentale che da parte dei nostri, diciamo, dei nostri dirigenti, dei nostri capi ci sia un maggiore controllo, perché io come lavoratrice mi accorgo che tante volte anche noi stessi veniamo lasciati un po'... C'è approssimazione in un campo in cui non ci dovrebbe essere approssimazione. Conclusione a Davide Farone rispetto a quello che ha detto Anau sulla necessità di una legge. Sì, la legge, ripeto quello che ho detto poco fa, la legge è necessaria, ma ci sono tante altre cose, così come anche le telecamere. Il tema delle telecamere possono servire per vedere se c'è qualcuno che gli danno uno schiaffo, una violenza, ma non si può vedere un operatore se sta facendo bene il suo lavoro o sta accompagnando diciamo il ragazzo verso la morte più che verso una lei da dove terapia. Partirebbe se avesse ampio mandato su questo? Da dove ma partirebbe? Io partirei innanzitutto sulla scuola, io partirei da lì e partirei dallo specializzare gli insegnanti, da lì stiamo partendo, dallo specializzare gli insegnanti di sostegno nella trattare le patologie per quello che sono. Cioè l'handicap non è una massa indistinta in cui è tutto uguale. Nell'handicap ci sono ragazzi, personalità, soggetti che vanno trattati sia per patologie ma anche in quanto soggetti e in quanto persone. E la scuola è il primo punto da cui bisogna partire. Non può più capitare che, come è accaduto a Ficarolo, il personale che diciamo trattava che aveva la gestione di questa struttura era personale che aveva una caratteristica, non di essere formato, ma di vivere a Ficarolo, un comune di 2000 qualche abitante, di cui 300 persone erano dipendenti di quella struttura. Ma quindi bisognava, si era competenti solo perché se si viveva in quel comune. Grazie Davide Farone, la sigla ci dice che dobbiamo finire, grazie Carlo Nao, speriamo nel poco che possiamo di aver fatto la cosa giusta anche questa mattina.